Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Basta pensare a quante famiglie hanno magari qualche vecchio strumento che non usano e che potrebbero darlo a chi ne ha bisogno per suonare, semplicemente. Lo sbaglio è assolutamente di non capire l'importanza per i giovani, per tutti, insomma, di ascoltarsi l'un con l'altro, anche come nella vita, no? È la stessa cosa. E la musica è uno degli esempi migliori. Far musica diventa come una lingua nuova, come un gioco e come un divertimento. Lui è Claudio Abbado, il grande maestro, io sono Enzo Argante, il traghettatore, buongiorno, e invita a donare gli strumenti, i vecchi strumenti che non usate più, per i bambini delle scuole del Medio Oriente e dell'Africa. Questo è possibile oggi dalle 11 alle 22 durante una giornata non stop di concerti ai laboratori Scala Ansaldo in via Tortona a Milano. Esiste la città della speranza. Che cos'è? Ce lo spiega il presidente Andrea Camporese. Sì, buongiorno a tutti. La Città della Speranza nasce nel 1994 per sostenere la clinica oncoematologica pediatrica dell'ospedale di Padova, ovvero dove i bambini del Veneto vengono ricoverati per guarire dalle malattie tumorali. Nasce perché c'erano delle esigenze importanti in quel reparto, c'era una grande professionalità da parte dei medici, ma i locali erano assolutamente insufficienti. Costruisce in 2 anni, raccogliendo soldi dai privati cittadini, dalle imprese, dalle manifestazioni, da quant'altro possa fare fundraising, il reparto di oncologia pediatrica con 26 posti letto e 6 posti per i trapianti di midollo. Diventa punto di riferimento in pochi anni di tutte le leucemie infantili pediatriche d'Italia e i sarcomi, e quando ha concluso questa prima fase del progetto nel 98 decide di investire nella ricerca. Abbiamo fatto un ospedale, bisogna svuotarlo. Abbiamo quindi da allora, per 10 anni, finanziato oltre 40 progetti di ricerca di medici, sia padovani che no, per un totale di 14 miliardi di euro, sempre raccolti dai privati. Nel 2008 partiamo con un'altra grande scommessa, un altro grande progetto, che è quello di costruire il più grande centro di ricerca pediatrico d'Europa, e questo a Padova. Quindi abbiamo ragionato come allora con il pubblico per avere tutte le concessioni e tutte le agevolazioni del caso, e abbiamo iniziato questa sfida. Abbiamo trovato per strada molti imprenditori, abbiamo trovato l'architetto portoghese, ad esempio, che ci ha regalato il progetto, abbiamo trovato la zona industriale padovana che ha deciso di donarci il terreno, e da lì abbiamo iniziato questa costruzione. 16.000 metri quadri di edificio, di cui 10.000 destinati a laboratori. E lì dentro è aperto, la proprietà del centro è della Fondazione Città della Speranza, quindi privato. Abbiamo già stilato degli accordi con le università e con importanti centri di ricerca, sia italiani che stranieri, e vogliamo creare un qualcosa di dinamico, di veloce, di rapido, per dare futuro ai nostri figli. Grazie, complimenti, è una storia bellissima, importantissima, di cui non può che essere veramente orgoglioso. Concludiamo con un'ultima notizia, un po' singolare. Promuovere la vicinanza come momento di socializzazione e per incoraggiare i rapporti quotidiani tra vicini di casa. È proprio una festa, la festa dei vicini di casa, si chiama Vicini Vicini ed è stata organizzata dal comune di Casalecchio ed è la 7ª edizione, anche questa caratterizzerà la domenica. Tutto per oggi, vi ricordo ferribot@radio24.it per segnalare le vostre iniziative, e che Ferribot, l'edizione che riguarda la settimana, va in onda la domenica alle 6.50 e alle 14. Un ringraziamento ad Anita Panizza in redazione e a Valeria Bernardi in regia.